Cari amici di Radio Pazza, benvenuti. Questa è una puntata speciale di Radio Prisma, Trocitos de Emoción. Non vi annuncio nulla, ma tenetevi pronti perché sarà una sorpresa. È sulla scia di questi applausi ben auguranti che è un vero piacere introdurvi una mia ospite, la cara Ishtar del blog Il Piacere del Creare. E ho scelto questa musica per presentarvela proprio perché, per quanti già la leggono, saprete che è comunque una persona molto passionale, molto caliente, ma lascio a lei la parola. Vai, Ishtar, presentati pure a Radio Pazza. Ciao a tutti, ciao cara, è un piacere essere qui con voi, grazie dell'invito. Certo che dopo questa presentazione dovrei fare come minimo fuoco e fiamme. Beh, in realtà fuoco e fiamme, ora ancora no, perché. Dai, diciamo ai nostri ascoltatori il brano che hai scelto per cominciare, lo presenti tu? Sì, già. Non è proprio una canzone da fuoco e fiamme. È Anthony and Johnson con Hope There's Someone. Perfetto, allora adesso ce l'ascoltiamo insieme. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this home will take care of me when I die. Will I go? Devo dire che insomma un bel pezzo di quelli toccanti, eh? Ma ti posso chiedere come mai hai voluto iniziare proprio con loro, con gli Anthony and the Johnsons? È una canzone che ho beccato per caso in un altro blog, mi ha colpito subito perché melanconica come sono io, è sia straziante che un grido disperato di speranza, come la voglia di una luce che ancora non c'è. E allora qual è in questo momento la speranza di Star? E poi, naturalmente, se ti va, perché hai scelto proprio il nome di questa dea come tuo nickname sul web? La speranza attuale è che piova luce dentro di me. Sto aspettando di rinascere, di trovare un amore importante. Quello che non viene insegnato, il più importante, l'amore per me stessa. Ho scelto Ishtar perché è l'unica ad essere la dea sia dell'amore che della guerra. Diciamo che racchiude i miei aspetti principali. Per me la vita non ha senso senza amore. Parlo di amore in generale, ecco, non parlo esclusivamente quello di un uomo. E io non so vivere senza lottare, per cui... E quindi ho scelto un'altra canzone che penso sia perfetta. Piove luce, di Tazenda insieme a Grignani. E allora ci ascoltiamo questi che sono anche i tuoi conterranei, lo possiamo dire, no? L'avranno capito un po' tutti dal tuo accento. Allora, buon ascolto. È finito tutta si stessa eterna mamma. Ríos y estelas, montes, rizos de piscinos. Culla del mattino è il mio canto, piove luce dentro di me. aspettando te. Mi desoscherò quando è muoio. L'azzurro ti consola nell'anima mia. Tu le asalo che mia. Mentre aspetto te e guardo il cielo nido e vivo. Sanotte in questo coro piove luce dentro di me. Piove luce dentro di me. Dentro di me. Aspettando te piango e muoio. Un estratto dal brano che abbiamo appena finito di ascoltare. E quindi in qualche modo, insomma, sembra sempre ritornare questo tema ricorrente dell'amore come attesa. Più che amore come attesa, diciamo che anche il mio nick è collegato a quel che ha messo della vita, che siamo un continuo nascere, morire e rinascere. Poi ovvio, in questo momento il mio buio è dovuto anche a una storia appena conclusa d'amore. Lo ammetto. Diciamo che c'è stata una attesa lunga e straziante per una storia che ora è finita. Però con questa canzone io voglio dire di più. Con questa canzone non parlo d'amore, almeno non dell'amore verso un uomo, parlo dell'attesa del ritorno della luce, dell'amore verso me stessa, quello deve ancora arrivare. O forse sta arrivando. E allora, visto che dicono che la danza in qualche modo mette in contatto con il divino e dona speranza, energia vitale, io direi che per tirarci un po' su ci ascoltiamo questa bellissima Miraggi di Antonello Venditti. Io più ti perdo più se mia, intorno al fuoco siamo tutti nomadi. Ma tu ragazza tu lo sai, tu balli scalza tu lo sai, che in questo fuoco mi potresti uccidere e brucerò. Spiaggia senza Dio che non dà retta alle virtù degli uomini. Lui ride forte, guarda te, quando non guardi guarda te e mi sorride. Oh, in questa notte senza amore, che grandi prove dall'amore, intorno al fuoco siamo tutti zingari. Tu stai ballando insieme a lui, tu stai correndo insieme a lui, dietro le dune. Strega, lo sai che mi scateno quando c'è musica. Cara mia, non per niente siamo sorelline. Io posso essere timida, ma quando c'è la musica giusta, l'atmosfera giusta, non mi viene più nessuno. Non lo so, è più forte di me. Esplodo. Se la musica mi piace, mi scorre nelle vene e mi scalzo e ballo. Senti, ma passato poi il momento della passione, diciamo, in cui l'amore si scatena anche nella sua forma più carnale, come anche nel testo della canzone di Venditti, cos'è che viene a mancare? Ci sono alcune storie d'amore che in qualche modo si bloccano nel culmine del loro evolversi, perché si erigono come dei muri, no, tra i due partner. Diciamo che ci sono fasi nella vita in cui non sempre ci si incontra con le proprie esigenze, o magari si è in fasi differenti di evoluzione, e quindi magari la distanza, non poter comunicare e spiegarsi diventa un problema, E quindi magari una storia meravigliosa può arrivare, anche per problemi di comunicazione, a finire. Che poi quanto è difficile parlarsi, a volte sembra una cosa scontata, invece tante cose non vengono dette, vengono taciute, e lì nascono poi i problemi che poi esplodono, no, tutti insieme, portando poi al fallimento. Hai detto una gran verità, anche perché quando poi non ci si capisce, ci si fraintende, la comunicazione è molto importante. E non sempre si ha lo stesso umore e predisposizione per capirsi. Io direi che a questo punto ci sta benissimo il pezzo che hai scelto proprio per parlare di comunicazione. Vuoi presentarlo tu? Certo. Parla con me, Eros Ramazzotti. Mi piace come lo dici, Ramazzotti, bello. Che fai, inizi a prendere in giro? Guarda che attacco io col tuo accento romanaccio, sorellina antipatica. Spenti che hai, cos'è quel buio che li attraversa? Hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che tu. Parla con me, tu provaci almeno un po', non ti giudicherò, perché una colpa se c'è si può dare solo a te. Parla con me, col mondo messo com'è, anche il futuro per te non vedi come un mare in burrasca. Ti fa paura, lo so, io non ci credo, però che almeno un sogno tu non l'abbia in tasca. Perché quel pianto asciutto, non tenerti dentro tutto, c'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi, parla con me. Che questo pezzo mi piace molto. Devo dire che a me Ramazzotti, insomma, non è che piacesse molto ultimamente. Lo ascoltavo tanti anni fa, se la gemella, l'Aurora, e ultimamente l'avevo proprio lasciato andare. E invece devo dire che questo brano mi ha colpito per il testo soprattutto, e poi perché comunque fa riferimento a un tema che sento molto mio ultimamente, che è proprio quello che dicevi tu, innamorarsi di se stessi, no? Sì, penso che innamorarsi di se stessi sia una cosa importantissima, sembra semplice, invece non lo è una cosa che dovrebbero imparare subito, da piccoli, no? E secondo me è il compito più importante che dovrebbero mantenere i genitori, insegnarci l'amore per noi stessi. Perché, ecco, infatti sono d'accordo, questa canzone è stupenda proprio perché dice questa cosa verissima, semplice, che molti ci dimentichiamo. Dice anche non si può ammazzare un dolore chiudendo il cuore, perché la cosa più semplice, automatica, istintiva e di difesa è quella: ah, adesso chiudo il cuore, adesso non mi innamoro più, adesso ritorno sulle difensive. Non è così, non si fanno passi avanti, non si apprende niente se si fa così. Il dolore va affrontato, si va avanti e si cerca di vedere il buono anche nel cattivo, perché sennò... L'anestesia dei sentimenti, diciamo, lasciamola fuori, perché altrimenti ci si perde poi... L'ho già provata. Ogni emozione, no? Ci si perde il buono che c'è nella vita, il poco buono che c'è nella vita, che sono i sentimenti veri, che siano amicizia, fratellanza... L'amore. Sì, che poi anche la crescita, poi alla fine sembra sempre retorico, però io devo dire personalmente le porte della mia percezione si sono aperte tantissimo per le sofferenze che ho avuto. Poi, chiaro, non è che ne faccio un vanto, però se non avessi avuto quelle non sarei la persona che sono oggi, no? Possiamo dire anche questo. Sono pienamente d'accordo. Guarda, ti dico che sulla sofferenza, sul dolore, sulla paura del dolore ho scritto qualcosa, ma forse... Non è attinente. Ma penso che comunque, dico, nel cammino poi in cui noi cerchiamo chissà cosa, chissà quale chimera obiettivo, cerchiamo di dare pace ai nostri tormenti, di scacciare i nostri demoni, alla fine pensiamo che stiamo cercando chissà cosa, cerchiamo noi stessi. Esatto, sì. Poi magari facciamo l'errore di pensare che la felicità sia amare un'altra persona. E che la gioia derivi dall'amore che un'altra persona ci dà. Esatto, sì. È lì che noi cadiamo nuovamente, capendo che comunque l'amore per un'altra persona è effimera. Sì, poi tra l'altro capita in alcuni casi che ci specchiamo in un'altra persona, quindi in quella persona vediamo una parte di noi che quella persona fa risaltare. Anche questo, esatto, può essere. E quindi è come se quella persona fosse uno specchio che riflette la parte migliore di noi nel momento in cui tutto va bene. Poi se siamo fortunati questa cosa si prolunga nel tempo, altrimenti si tratta, esatto, di un passaggio, no? Beh, dipende anche quanto si è disposti a rischiare di se stessi in una relazione. Esatto, sì. Poi quanto l'altra persona... Quanto si crede nell'amore e quanto si è disposti a mettersi in gioco. Poi direi anche quanto l'altra persona ci mette in condizione di abbassare la guardia, no? Di eliminare le nostre difese, perché poi non tutti sono in grado di farlo, no? Scatta quella specie, esatto, di alchimia per cui tu sei nuda davanti a quella persona, come non lo sei con nessun altro, no? Mi è appena capitata una cosa del genere, ecco. Disgraziata, vai a toccare, mettere il dito nella ferita. Senti tesoro, allora a questo punto io farei partire un pezzo che ho scelto per concludere, diciamo, questa parentesi sulla comunicazione, che è Read My Mind dei The Killers, che in qualche modo, diciamo, sottolinea questa capacità che hanno certe persone di leggere nei nostri pensieri, eh? Che dici? Beh, la facciamo partire. Sì, streghetta, va. Ok, Killers, Read My Mind. On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you want. Can you read my mind? stars are blazing like rebel diamonds cut out of the sun. Can you read my mind? Can you read my soul? Dici bene, leggere l'anima altro che la mente. Beh, qualcuno ci è riuscito, ma non completamente perché non siamo anime perfette. Siamo tutte in cammino e ognuno ha la sua fase, mannaggia. Esatto. Beh, che dici, ti sono piaciuti i Killers? Direi di sì, a quanto sembra. Sì, ha proprio una bella melodia, non è di quelle noiose, ma non è neanche lentissima. Sì, poi bella, un testo, dai, bello. Sì. Cara mia, tu avevi qualcosa da leggere, o sbaglio? Una delle tue perle che ogni tanto regali ai lettori del tuo blog. Sì, questo tra l'altro sarà uno che non so quando sarà come posto, cioè, perché io prendo, scrivo, salvo nelle bozze del mio cellulare e poi chissà quando è che diventerà post, perché non basta scrivere, ci vuole la musica giusta, la foto giusta, Dillo a me. non basta solo il testo. No. Beh, diciamo che mi è venuto in mente ieri, pensando a quelle persone che non sanno ascoltare, che hanno paura di farsi sfiorare dal dolore. E secondo me è un peccato. E da lì scrivo, tu che temi tanto il tocco del soffio del dolore, per paura di provare l'amaro sapore, non sai a che ricchezza la tua anima sta per rinunciare. E questo perché, avendo vissuto io molti momenti un po' particolari, diciamo anche abbastanza drammatici, e condividerlo con persone importanti della mia vita, posso affermare che dalla condivisione del dolore nasce una ricchezza interiore allucinante, cioè ti dà tanto il dolore. Non è che, cioè, sto dicendo che dobbiamo per forza soffrire per stare bene. Penso che condividere il dolore altrui sia una ricchezza anche per se stessi. Quindi mi dispiace per le persone che si vogliono tenere alla larga dal dolore altrui, che non sanno cosa si perdono, ecco. Sì, sono d'accordo con te. Infatti poi la cosa buffa è come si intreccino poi pensieri e vite anche lontane. Per dire, oggi per esempio sul mio blog rispondevo a un commento e parlavo proprio di condivisione. Mi sono ricordata di un film che avevo visto l'anno scorso, Into the Wild, dove il protagonista sì, fa un percorso, diciamo, quasi individualista per allontanarsi dalla società che non gli piace, che gli sta stretta. E alla fine il pensiero che poi rimane come una pietra preziosa incastonata nella sua vita, che sfuma, è la felicità è tale solo se condivisa. Quindi, diciamo, il dolore condiviso, ma poi anche la felicità. E quindi quanto è difficile, no, uscire dal proprio orticello e guardare un'altra persona negli occhi. Cioè, si ha sempre la voglia di distogliere lo sguardo, no? Perché poi l'occhio è tutto. Nell'occhio risiede proprio ogni minimo pensiero che ti passa per la testa. Tu magari parli di una cosa, ma l'occhio dice un'altra. Certo, la voce mente, lo sguardo no. Lo sguardo è lo specchio dell'anima, per chi riesce a osservare veramente. Esatto, come si dice, per dire una frase retorica, ma che credo molto vera, che la bellezza sta nell'occhio di chi guarda. Perché se non c'è bellezza nell'occhio di chi guarda, puoi essere bello quanto ti pare, ma non se ne accorgerà mai nessuno, no? Vabbè, certo, sì, però siccome sono stanca di sentirmi dire di quanto sono bella... No, bellezza interiore, eh? Io parlavo di bellezza interiore. Sì, lo so, però siccome mi dicono entrambe le cose, e dico, siccome il mio specchio deve essere diverso da quello degli altri... Ma infatti vedi perché poi io ho scelto la strada poi della scrittura per manifestarmi all'esterno, perché non c'è foto, non c'è mediazione, quindi se ti piaccio come persona, dico, ti piaccio per quello che scrivo, quello che penso, non per come sono. Poi quello è una cosa, un di più, è chiaro che fa piacere anche quello, però è la forza della scrittura, della parola, è questa. Se tu ti innamori di un'idea, di un qualcosa che vibra soltanto con dei caratteri accostati e della musica, e non c'è un filtro fisico, no? Quindi io potrei essere... Ed è così anche... che è nato il mio blog. Esatto, quindi potremmo essere... È nato così il mio blog, per questo motivo è nato il blog. Esatto. Proprio perché avere questo riscontro. cioè potremmo essere anche delle befane allucinanti. Però esatto. Intanto con le nostre parole magari forse un minimo riusciamo ad arrivare a qualcuno, no? E questo è meraviglioso, credo. E infatti al mio blog è arrivato tanto che non mi aspettavo. È vero, anche a me. Beh, la potenza delle parole, sì, hai detto una cosa importante. Diciamo che infatti grazie alla potenza delle parole che sono arrivate tante cose dal mio blog. Diciamo che senza volere, forse inconsapevolmente, col mio blog richiamavo qualcuno, richiamavo la mia anima complementare, colei che cercava le mie stesse cose, ed è arrivata, e forse anche quella persona cercava me, tant'è che in un modo bizzarro ci siamo incontrati. Ed è nato tutto tramite le parole, ci siamo incontrati in una mezza strada. Cosa ti fa pensare? Dai, streghetto, c'è una canzone, aspetta, c'è una canzone che fa pensare questo. No, più che altro il fatto che dicevi le anime simili, no? Infatti il mio blog nasceva proprio come un'anima in mostra alla ricerca delle sue anime sorelle, che però non ha a che fare con l'amore tra uomo e donna, è proprio una questione più ampia, no? Universale, quindi tra anime simili che magari hanno avuto delle stesse ferite nella vita, o comunque si sentono a casa, a contatto le une con le altre, no? O si riconoscono, esatto, nelle parole degli altri. Una famiglia, ma infatti, casa, no? Una nuova famiglia. Ma infatti io questo pensavo. Chi è che si aspettava che arrivasse l'amore? L'amore però per una persona che non pensavi che esistesse, così tanto simile a te, da dire ma che cavolo eri tutti questi anni? Dove? Come se fossimo stati separati alla nascita, in qualche modo, no? Poi per alcuni si tratta di amicizia, per altri di amore. Ma infatti era nata con amicizia, mia cara. Poi che ti vuol dire? Il mio cuore evidentemente aveva bisogno di amore e si è fatto convincere a superare la soglia. Diciamo che hai sentito un richiamo, no? Una voce, oddio, che ti ha detto di raggiungimi a metà strada, io sarò lì e ti aspetterò. Hai intrapreso questo cammino, ma forse ci abbiamo provato. Forse Elton John lo dice meglio di noi, dai, andiamoci a sentire il suo pezzo, sì. Che dici? Questa forse è meglio. Calm Down in Time di Elton John. Quiet silence seconds out. I turned up the light switch and I came down to meet you in the half light the moon left while a cluster of nightjars sang a song, songs out of tune, a mantle of bright light shone down from the room. Come down in time, I still hear her say, so clear in my ear, like it was today. Come down in time with the message you gave. Come down in time and I'll meet you halfway. Thank you. There are women now. Some hold you tight while some leave you counting the stars in the night. La canzone di Elton John lo dice chiaro. Siamo tutti in cammino, poi capita che alcune persone si incrocino negli stessi cammini, ci si incontrano, provano a fare un cammino insieme. Qualcuno sorgono delle situazioni che alle volte sono più grandi di noi, che ci fanno capire delle cose, che ci fanno avere paura. Magari la paura è più forte dell'amore, o magari è proprio l'amore che non è così forte come pensavamo, e uno dei due si ferma durante il cammino. No? Anche in amicizia, non solo in amore. Sì, perché a un certo punto è come se nel cammino scendesse il buio, no? Qualcosa viene a mancare, o si alza un muro, o magari si smette di avere la sintonia che aveva fatto incontrare quelle persone, quindi si crea quella specie di vuoto, quella mancanza di incontro che prima invece aveva spinto a uscire, no? Dal proprio guscio. O magari ci si è aggrappati a quella persona inconsapevolmente, si è preso il buono e si ha paura del cattivo, ma non per egoismo. Si ha momenti in cui si ha bisogno di appoggiarsi agli altri, e questa è una cosa che non piace a me. Cioè, io mi appoggio alle amicizie, in amore cerco di, se non riesco a camminare da sola, di stare sola. Sì, perché poi altrimenti si finisce poi per fare delle cazzate, no? Detto proprio in modo molto terra-terra. Si finisce di ferire i sentimenti altrui senza volerlo. Infatti mi è successo proprio una cosa del genere, ma io non... mi è capitato che ero un po' così, mi si è presentata una splendida persona e sono scappata proprio perché io non ero sicura di quello che volevo. Mi potevo aggrappare e godermi degli attimi di gioia che non ho voluto vivere, perché per me era più importante non far soffrire l'altra persona, che ora, a distanza di un anno, sta per sposarsi e ne sono felice. Ha trovato quello che cercava, ma sapeva già quello che voleva questa persona. È bello quello che dici, infatti lo condivido molto. Spesso anche ci si deprime, no? Perché magari si ha bisogno di quella persona, però non nella stessa forma con cui l'altra persona vuole noi. Quindi a quel punto si rinuncia a un pezzetto di noi per permettere a quella persona comunque di volare e andare avanti lo stesso, no? Per evitare appunto che si creino magari delle false speranze, delle situazioni magari che possono provocare sofferenza, no? Una persona a cui comunque si vuole molto bene. Sì, anche se l'hai conosciuta da poco, anche se non sai chi è, però ti accorgi se una persona è buona. Almeno questa è una cosa che ho fatto io, tutto qui è un mio vissuto. Sì, diciamo, senti delle vibrazioni che determinate persone emanano in contatto con la tua anima. Istintivamente senti che quelle persone ti comunicano qualcosa rispetto ad altre che invece non ti danno nessun tipo di sensazione, no? Senti, invece adesso ti volevo far sentire un brano che stamattina ho sentito alla radio prima che registrassimo, e mi ha fatto veramente pensare a te, a dei discorsi, insomma, che facciamo sul dialogo tra anime, su comunque incontrare altre persone. È un pezzo che io definirei epico, veramente emozionante. Sono i Mercury Rev con The Dark is Rising. Spero, insomma, che ti piacciono come piace a me. Thank you. But I know that until then, unless the stars surrender, all will be concealed. And now the snow is falling, and all my fences torn. Certo che mi è piaciuta questa canzone, perfetta, a parte che la melodia, che è veramente una figata, mi piace molto, molto sul mio stile, però anche quello che dice il testo, cioè penso che poi alla fine non è che se le cose vanno male una persona vuole fare del male deliberatamente all'altra, anche se ci sono delle sfumature che fanno male più di altre, più magari di essere lasciati, le modalità sono molto importanti, quindi questa canzone mi ha fatto sognare tantissimo, è bellissima, però come dice... Sono una strega! Ebbene sì, adesso mi metto... Meno male, guarda che gli ascoltatori non possono vederci, perché in questo momento verrebbero tutta la mia mise da stregaccia, con il cappello nero a punta, il neo sul viso. No, non è il caso nemmeno che vedano me, sono come sempre in pigiama, che io la prima cosa che faccio a casa è mettere il pigiama. Ecco, io invece ho dei pantaloni neri tipo da tuta e una maglietta taglia L del film Little Miss Sunshine, gialla, proprio gialla canarino Titti, che mi fa un baffo, quindi meno male che la radio è solo suono, solo voce. Questa radio, che meraviglia, guarda, immaginateci come cacchio vi pare, non ci vedrete mai. No, mai dire a me mai, meglio... mai dire mai, no, nella vita non si sa mai. Lasciamo perdere, va. Senti, allora, sono contenta che hai apprezzato i Mercury Rev e a questo punto lascio a te la palla, perché adesso il brano che segue l'hai scelto tu, quindi vai cara, presentacelo, facce sognà. Diciamo che ho scelto una canzone che mi martella da un po' in questo periodo, è di Neffa ed è Lontano dal tuo sole. Alzarmi ancora, il momento che aspettavo è ora, nonostante questo cielo sembri chiuso su di me. Nessuno mi vede, nessuno mi sente, ma non per questo io non rido più. Sono qui io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho e avere un po' di pace che ora non ho e luce nei miei occhi che ora non ho una direzione giusta che ora non ho che ora non ho. Sulla strada troppe stelle spente, la tua mano ora servirebbe. Troppa gente alza il dito e poi lo punta su di me. Nessuno mi crede davvero innocente, ma non per questo io non vivo più. Io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole. E piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho. Che ora non ho e luce nei miei occhi che ora non ho una direzione giusta che ora non ho che ora non ho che ora non ho e avere un po' di pace che ora non ho e luce nei miei occhi che ora non ho direzione giusta che ora non ho, che ora non ho, che ora non ho. Io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole, e piove ma io qualche cosa farò per sentire ancora tutto il calore che ora non ho e avere un po' di pace che ora non ho e luce nei miei occhi che ora non ho una direzione giusta che ora non ho che ora non ho. Grande Ish, adesso vedrai che tutti gli ascoltatori di Radio Pazzo e Radio Prisma ti subisseranno di contatti sul tuo blog, che ricorda, che ricorda il piacere del creare.blogspot.com. Scatenatevi, no, scherzi. Sì, se poi volete scrivere anche in spagnolo ci capiamo, non parlate che non scrivete in inglese, ecco, perché ancora lì non lo mastico tanto tanto very well. Vabbè, diciamo che non è neanche tutta sta grande cosa masticarlo, quindi non ti perdi niente, no, scherzo. Senti, a questo punto, dopo questo grido, diciamo, di disperazione, ma anche di speranza, perché comunque è una, si sente la voglia di rinascita in questo pezzo, qual è il pezzo che hai scelto per andare avanti nella nostra puntata Trofitos de Motion? A questo punto mi pare perfetta la canzone di Gianna Nannini con Maledetto Ciao. Ascoltiamola. Lo so, sempre così, rimesci pianti e sogni e poi li butti via. Con te lo so, non smette più la rabbia dei ricordi e vomito le mie allegrie. Io che vorrei averti qui nel mio deserto di speranze. Senza di te in questo cielo all'orizzonte, con te lo sai, quel giorno in più è un grido nel silenzio contro i venti e le mare. Con te lo so, finisce. finisce qui l'inizio di un amore che ci guarda andare via. Anima mia, cosa farò nei boschi immensi della luce senza di te? Ali non ho per questo cielo che mi prende, cielo che non sente. Ciao, maledetto ciao, ora sono qui. Ciao, nell'aria resterai gioia di vivere. Ciao, ciao, ciao, ciao, maledetto ciao. Ora sei in me gioia di vivere. Ciao, ciao. Ecco, direi che come conclusione ci sta un bel ciao liberatorio, no? Scacciamo via tutte le brutte cose, i brutti pensieri e ripartiamo da un giorno nuovo, che dici? Dico che alla fine dei giochi nasciamo soli e soli moriamo. Ma non nei cuori di chi ci ama e lo fa veramente. E lo fa oltre la mente. E lo fa perché non può farne a meno. Questa è mia, eh. Non avevo dubbi, cara. Non per niente sei maestra nel creare emozioni, no? Speriamo belle. Ma sì, sicuramente, sicuramente. Sennò non ti avrei mai letto né commentato, cara. Non per niente sono un'affezionata lettrice del tuo blog. Insomma, dove troverete, cari ascoltatori, tante altre perle della penna di Ish. Ma dai, smettila! Non incominciare che mi fa arrossire! Ma tu ricordati il bonifico alla fine del mese, che mi raccomando, mo te manda la parcella. Sì, certo, infatti, guarda. Senti, io direi a questo punto che purtroppo la puntata, ahimè, sta volgendo al termine, però io mi sono divertita tantissimo, non so tu, la mia prima puntata in coppia, spero che verrà una casa carina. E a questo punto io vorrei concludere con un pezzo che, secondo me, dell'amore dà la dimensione più reale, più quotidiana, ed è poi la parte più difficile poi da ottenere, perché si è buoni tutti, no, a costruire castelli in aria nell'immaginazione, ma poi l'amore vero si misura nella vita di tutti i giorni. E quindi questo pezzo di Raiz, secondo me, racchiude proprio tutto. Una casa si costruisce da sé solo dentro le favole di chi vuole far credere a un mondo che non c'è. Forse abbiamo ancora bisogno di eroi, gente semplice come noi. Ecco, io in questo credo, gente semplice come noi, nel senso, gli eroi alla fine servono a poco, poi quando poi si deve costruire una famiglia, una vita insieme. Tu che ne pensi? Ti piace come lettura? Sì, ma io paragonerei direttamente la casa a una vita in coppia. cioè alla fine non è importante tanto di per sé la casa, ma penso che una coppia si costruisca mattone per mattone insieme. Poi, vabbè, capita che qualche mattone cade perché si è sbagliato come si era messo, si capisce dove si è sbagliato e si rimette più solido. Ecco, poi ci si stanca, ci si ferma e si va avanti. Ripeto, dipende da quanto si crede e si è disposti a investire di se stessi in un rapporto di coppia. Tutto il resto verrà. Diciamo, dobbiamo essere un po' muratori del cuore, che brutta espressione, però ci sta, dai. Munirci di cazzuola e di olio di gomito e costruire giorno per giorno, limando le differenze, abbattendo i dislivelli, lottando contro le infiltrazioni dell'acqua, contro tutte le avversità, e costruire qualcosa di solido che resisterà anche ai terremoti. Esatto, non c'è forza maggiore che l'amore, quindi con quella si supera tutto per me. Benissimo, allora direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori con Raiz, Scegli me, se vuoi salutare anche tu. Beh, io direi che un raggio di sole continua a filtrare nonostante le tenebre, delle fitte nubi che si preparano a scaricare tutta la loro rabbia con le lacrime di acqua che Madre Terra accoglierà per dare nuovamente spazio alla vita. E mentre tutto pareva nascere e io morire, inizio a rifiorire. E mia anche Stupenda, questa. stupenda, stupenda. Alla prossima, mia cara. Buona giornata a Grazie, tutti. grazie Star e mi raccomando, per quelli che sono nuovi ascoltatori, questa era la puntata speciale di Radio Prisma Prostitutes d'Emotion che ha visto partecipare Star e per tutti coloro che hanno gradito la puntata vi invito anche a seguire le altre puntate degli altri speaker di Radio Pazza su radiopazza.blogspot.com e mi raccomando lasciate dei commenti perché altrimenti sembra che ci parliamo addosso da sole, ok? Allora, ciao Ish, e buona domenica e ci ascoltiamo Raiz con Scegli me. Ciao, alla prossima. Se mi cerchi nei sogni che tu fai, non è lì che mi troverai, nelle verità e le bugie delle fantasie. Sono l'uomo che cammina con te, un po' forte e un po' debole, ora in me tu puoi credere, senza troppi perché. A fianco ancora tu resterai, di fiducia ti nutrirai, nei miei occhi tu guarderai e ti accorgerai che vivo solo dove vivi tu, e respiro solo spirito, non ci sono mai nemmeno se, quando scelgo tu scegli in me. Si costruisce da sé, solo dentro le favole di chi ti vuole far credere a un mondo che non c'è. Forse abbiamo ancora bisogno di eroi, gente semplice come noi, per un minuto per sempre da tutto quel che hai. Hola, ¿qué tal? Allora, muy bien se il programma non mi tradisce. Eccola. Ciao. Sì, Ciao. esatto. Innamorarsi di se stessi, questa è una cosa importante. Penso che Aspetta, l'amore. aspetta, perché devo vedere se è partito il registratore. Guarda, tranquilla, tanto io lo sai che sono in treno. Aspetta, che qua non ci si capisce un cavolo. La rifaccio e basta.